da quasi un anno ormai si riunisce un coordinamento transnazionale dei migranti che ha lanciato per il 1° maggio una data di mobilitazione. Quindi in quella giornata ci saranno manifestazioni in diverse città d'Italia, Francia, Polonia, Romania, Belgio, anche Turchia, Marocco. Si scende in piazza e si lotta per le condizioni di sfruttamento sul lavoro, ovviamente, delle donne e uomini migranti e anche fuori dal lavoro. Una delle richieste principali è quella di un permesso di soggiorno europeo e incondizionato. Anche a Bologna, appunto, saremo in piazza. La manifestazione consisterà in una marcia a partire dalle 10 del mattino. Ci concentreremo davanti al centro Mattei, che in queste ultime settimane i migranti che ci vivono dentro stanno portando avanti una lotta per le condizioni di disagio e di sfruttamento, appunto, a cui sono sottoposti dalla struttura, dalla prefettura. L'idea è quella di fare tutto il tragitto dal Mattei fino alla città e di arrivare sotto la prefettura. Nelle ultime settimane abbiamo fatto un blocco, i migranti hanno fermato il Mattei per una giornata, la prefettura aveva promesso un tavolo, ma questo tavolo non è mai arrivato e i migranti non sono stati ascoltati. Ora stanno facendo delle piccole migliorie di facciata, soprattutto per diciamo rispettare un po' di più le norme sul Covid, ma non c'è intenzione comunque di ascoltare i migranti. Tra l'altro questa settimana gli operatori hanno convocato i migranti dandogli dei fogli, dicendogli che tutti coloro che hanno guadagnato più di 500 euro al mese nell'ultimo anno dovranno essere buttati fuori. Per questa e molte altre ragioni che rendono il Mattei uno spazio invivibile e che anche un'immagine un po' di come i migranti stanno vivendo e lavorando a Bologna in questo momento, faremo questa manifestazione a cui invitiamo tutte e tutti quanti.